Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Siamo qui, caro Oscar, alle 8:20 minuti. Eccoci qua, non ancora alle 8:20 minuti, 19:25. Ah. È mezzo minuto di vita, perché buttarlo via? No, ma certo. Allora, in diretta, fino alle 9:30. Sempre. In questo 12 luglio, che è San Fortunato, come i tanti topolini che troneggiano in tutti gli articoli di Roma, che hanno trovato un posto dove prolificare. Ma al di là di tutto questo, tra gli altri santi di oggi, Veronica, quella del volto santo, cioè la donna che avrebbe impresso su un lino l'immagine di colui che andava sul Golgota. Poi Proclo, Ilarione, Paterniano e Agnese Le Tintan, insieme a 120 martiri cristiani in Vietnam, perché Giovanni Paolo II, lo ricordo a tutti, fece questa infornata di santi per nazioni, per così dire, ricordando che in Asia erano state migliaia e migliaia di martiri tra 700, 800 e 900 di tipo cristiano cattolico. E nel 100 a.C. oggi nasceva Giulio Cesare. Ah, la nascita di Giulio Cesare. Allora, cari ascoltatori, caro Oscar, intanto prima in rassegna stampa ho detto che dovevo farti una grande provocazione. Vabbè, intanto diciamo che di che cosa parleremo. Avremo ospite Raffaele Cantone alle 8:40, sì. Parliamo un po' di corruzione, di appalti, insomma, l'Expo è lì. L'abbiamo vista questa inchiesta di recente con appalti dati probabilmente alla mafia. Mafia, la super blindata, doveva essere super sicura, e invece no. Metro C a Roma, qualcosa la metro si aggiunge. A Roma si legge sui giornali che ci sarebbero stati dati 300 rotti milioni ai costruttori che non erano dovuti, così glieli diamo anche di più. Sovraccosto, già quello dichiarato. Parleremo anche di famiglia. A proposito di famiglie, mi ha incuriosito molto, hai visto che in Gran Bretagna, ma tu l'avevi detto, sarà Theresa May, la premier britannica, sì. Anche lì una donna, uomini. No, anche lì, e un'altra, no, perché lì, se ti ricordi che poi la Thatcher arrivò alla fine degli anni 70, quindi insomma decenni e decenni. No, visto che si parla sempre di più di potere femminile, oggi su Repubblica il tema viene molto tipizzato, per così dire, perché c'è la sindaca di Madrid che dice meglio le donne, perché le donne al potere conoscono i problemi concreti, la famiglia, eccetera, eccetera. Gli uomini si fanno tante pippe mentali, poi sono più ambiziosi, antepongono a tutto la carriera. Certo, uno pensa a D'Alema, certe volte gli viene voglia di dare ragione. Perché ti è venuto in mente D'Alema sulle pippe mentali? Perché un tempo la prima Repubblica era Andreotti, l'Ercolino sempre in piede, che diceva arieccomi. Nella seconda è diventato lui, e lo dico con una punta di ironia, perché è un grande talento della politica restare sulla scena, o meglio avere la stizza di voler restare sulla scena. Però insomma, Natalia Aspisi su Repubblica prende le parole del sindaco di Madrid e dice: ma in fondo è meglio, diciamolo, meglio una donna. Anche se c'è da dire una cosa, che la rivale, il ministro dell'energia, la rivale di Theresa May, quella che ha perso, si è dovuta dimettere dopo un'intervista abbastanza imprudente, nella quale ha detto: ma Theresa May non è neanche mamma, non capisce i problemi. Il problema è che Theresa May avrebbe voluto evidentemente e non è riuscito ad averlo. Attenzione, mamma, però, non è riuscita ad averlo. Una donna, avendo toccato questo tema, è stata costretta, non è che ha perso, è stata travolta in poche ore, sì. Costretta a dire: ritiro la mia candidatura. Ricordate anche solo le polemiche qui a Roma, la Meloni incinta, non può fare la mamma. Ma nessun uomo politico, se dicesse cose simili su una incinta, le figlie eccetera, si dovrebbe mai ritirare. Attenzione, questo è un punto, è vero. Io sono convinto che molti in ascolto considerano questo un classico tema che li irrita, perché perché le donne sì, le donne no. Invece è un tema, per così dire, non è che sia secondario, per esempio, che siano donne l'Appendino a Torino, la Raggi a Roma. Cioè, hanno anche per questo impersonificato una svolta rispetto alle situazioni precedenti. Vediamo se vi irrita, ditecelo all'800240024. Però adesso vorrei irritarti io, caro Oscar. E quindi parliamo della Boldrini. No, mamma mia, ma oggi sei proprio urticante, no, dopo D'Alema. No, credevo Boldrini. Per rimanere in dopo tempo. La Boldrini. No, Parliamo di questo, una deputata, anche qui donna ma non c'entra niente, eurodeputata lussemburghese Mehdi Delvaux, racconta la stampa, ha detto: siccome andremo in un mondo sempre più di robot, ci cambieranno anche i pannoloni, i pannolini e i pannoloni, i robot, magari. Quindi i robot devono pagare le tasse, essere considerati delle, come dire, persone artificiali a tutti gli effetti, e quindi paghino le tasse. Vedi, subito ho affermato un tema, e io lo difendo con calore, che le donne sono portatrici di buon senso. Tutte le regole ammettono le eccezioni, per così dire. No, vabbè, ma questo è il... Dunque, o si può spiegare in due ragioni: o il particolare, la particolare fame di entrate per lo Stato, che si inventa, come è noto, entrate su praticamente ogni cosa, quindi figuriamoci, questo sarebbe salutato come una geniale idea da parte dell'Agenzia delle Entrate del Ministero dell'Economia. In realtà non ha nessun senso. Non ha nessun senso, no, dire, ma no, non ce l'ha, perché... Ma però dice, perché questi robot toglieranno anche posti di lavoro a persone, cioè si sostituiranno proprio alle persone, e se non rivediamo tutta la previdenza sociale anche in funzione di questo, si creeranno degli squilibri. Allora, in realtà la deputata ha voluto colpire, diciamo, l'immaginazione da una personalità. Nella realtà dei fatti, quindi al di là della boutade, perché è chiaro che uno Stato non potrebbe mai tassarli come persone, potrebbe tassarli come beni strumentali di impresa. E qui la faccenda diventa molto seria, perché viviamo in un paese che tassa molto i beni strumentali di impresa. Noi li tassiamo, ci siamo inventati la tassa sui beni strumentali imbullonati, tanto per essere chiari. Tassiamo i fattori della produzione con l'IRAP, quindi l'Italia è l'ultimo paese che da questo punto di vista deve prendere infatti lezioni. Viene da Lussemburgo, ecco, la differenza però, faccio sommessamente notare, che l'idea è sbagliata in radice, al di là della personalità che non hanno questi beni. Però siccome noi li tassiamo già, abbiamo toccato con mano che tassare i beni strumentali d'impresa significa diminuire A, la propensione all'innovazione, B, la propensione al valore aggiunto, 3, gli investimenti. Il risultato, per tutte queste tre ragioni, meno crescita, quindi proposta bocciata. Andrebbero incentivati. Bocciata. Non è vero che rubano, uno direbbe: no, Giannino, vuoi sostituire tutti con le macchine? No, dico semplicemente: cambiano i lavori, che alzare la produttività generale attraverso l'automazione significa avere più salario di merito da dividere per i lavoratori. È il contrario di quello che si pensa, altrimenti rimaniamo fermi al vecchio ludismo di chi bruciava le macchine all'inizio del 1800 in Gran Bretagna. Hanno perso. Comunque, insomma, questa proposta, non so, mi viene da chiedere se avete visto e se sapete di tasse che vi sembrano assurde tanto quanto questa. E quanti anni ci dai di trasmissione? No, per vabbè, spiegarti? Insomma, non ho visto. Dico agli ascoltatori, so già quale avete in mente, no? Nel momento in cui sto dicendo quale tassa secondo voi è più strana, assurda, il canone della RAI, sai che sai, adesso è come un riflesso arrivando condizionato. No, di questo ce ne dobbiamo occupare, perché scusami, come stanno arrivando le prime bollette telefoniche con certo, canone dentro, sì. Io sarei curioso di sapere dai nostri ascoltatori, più che come la prendete, quanti di voi non dovrebbero pagarlo e lo stanno ricevendo, perché questo è un problema di servizio pubblico farlo, perché come ovvio la RAI, questo servizio pubblico, cari colleghi della RAI, non potrete farlo mentre noi lo facciamo volentieri, per così dire. Comunque 800 24 00 24. Oh, c'è anche la politica, ti faccio sentire Renzi. Cosa si mangia oggi? Lo so, oggi si mangia il referendum. Io devo dire una cosa, ma poi dopo ti tacciano di populismo se lo dici, ma andate in un mercato, andate in metropolitana dove ci sono gente che va a lavorare, gente di giacca e cravatta che lavora nella finanza, nell'economia, nelle imprese, nelle aziende, nei bar, nei ristoranti, e chiedete che cosa pensano dello spacchettamento del referendum. Poi chiedeteli, non so, che ne pensano del lavoro, dell'occupazione, dei loro figli, delle tasse. Guardi smarriti, perché no, di che stai parlando? Lo spacchettamento del referendum. Hai preso un colpo di sole. Ma no, possiamo dire per una volta, noi che spesso critichiamo e veniamo anche criticati perché critichiamo troppo il Presidente del Consiglio, però oggi Renzi, nella trascrizione che Corriere Pubblica dell'intervista ieri fattagli da quel coraggiosissimo e durissimo intervistatore che è Severgnini, a un certo punto, quando ironizza e dice gli spacchettamenti si fanno a Natale, però Renzi ha mille volte ragione. Se pensi a quattro giorni di paginate intere, ascoltiamolo un secondo. Ah, ma spacchettiamo o non spacchettiamo? A Natale si spacchetta, cioè che discorso è questo? Deciderà il soggetto chiamato a decidere, che è la Corte di Cassazione. A mio giudizio Il punto vero è che la domanda è semplice: volete voi continuare con questo Parlamento o volete cambiare? No. No, sì, spacchettato. Quattro giorni, quattro pagine su ogni giornale a far vedere come i cinque così. Il 14 luglio il Parlamento deciderà. Sì, in realtà, cioè, ci sono i radicali che stanno raccogliendo firme, dovrebbero raccoglierne dunque 126 alla Camera, credo. Un quinto, almeno un quinto dei componenti adesso, di Camera e Senato, no? E sono però arrivati a 30 firme della Camera, ora ci riproveranno al Senato, ma hanno tempo due giorni per trovare 64 senatori che firmino. Insomma, mi sembra che questa cosa accadrà nel vuoto, e soprattutto lo spacchettamento è un tema così. E Renzi però ha parlato anche di successore. Senti qua, dice: è sicuro che non sarà Di Maio il mio successore? E rispetto alla domanda, lei crede che Di Maio sarà il suo successore? Naturalmente penso che la risposta è no. No, okay. La risposta domanda tecnicamente, lei crede? No, credo che arriverà un successore, io mi auguro che sia in un arco di tempo non immediato. Vabbè, insomma, anche perché ti scongiuri un po', ma non, è noto che ci sono, c'è qualche attrito con Maria Elena, e Maria Elena non potrebbe tollerare una cosa simile. Ecco, ma tu sai perché, altro tema che te titoli, la Boschi vuole andare da Hillary? Ragazzi, però io capisco che è luglio nelle redazioni, però non c'era l'ombra di una notizia, era tutto su un si dice montato, rimontato come la panna inacidita. Io capisco, oggi solidarietà tra l'altro al mio amico Pierluigi Battista, perché nel mese di luglio capita che i direttori dovendo riempire le pagine, perché per esempio perché non si può diminuire il numero di pagine a proposito della Casta Costa se non ci sono le notizie? Perché ci sono i giornalisti che devono lavorare. Ecco, ricordiamo che anche noi contribuiamo all'inefficienza. C'è la risposta, esatto. Semplice. Allora tu pensa proprio Luigi Battista, che oggi deve inventare una pagina intera su Quella Sera, che poi scrive da par suo, però insomma il tema è un po' appiccicaticcio perché bisogna riempire la pagina, cioè gli outsider, e il titolo dice Appendino, Gig Robot, il Portogallo e la Brexit, che come dire un classico esempio di volo pindarico. Oimè, c'è una pagina da riempire. Pierluigi, articolo bellissimo, però Fontana, direttore, risparmiamoci le pagine così o no? Insomma, questo è l'appello che fa, io non posso che condividerlo. Guarda qua le tasse assurde, vuoi saperle? Secondo gli ascoltatori via WhatsApp, l'accise sulla benzina per la guerra in Etiopia, un classico. Il Sistri dei rifiuti, Alberto D'Adesio. Bravissimo. Scrive quello. O la tassa di successione, Ale da Modena, che senso hanno speculare sulla morte dei propri cari? Qui non sono troppo d'accordo, però va bene. Perché non sei d'accordo? Perché io vorrei un paese nel quale, siccome noi abbiamo bassi redditi, siamo colpiti dalla crisi, siamo molto ben patrimonializzati, ma ne parleremo un'altra volta perché il discorso è molto complicato. Vorrei molto meno tasse sui redditi, cioè sui flussi. E più sul patrimonio. Ecco, e a quel punto un po' più sul patrimonio, compresa l'eredità. No, non voglio altre tasse, sia sul patrimonio, cioè sulla casa, sui redditi e tasse indirette come abbiamo fatto. Bisogna redistribuire, solo a quel patto, sia ben chiaro. Certo, mentre un tassista, sai che ci ascoltano molti tassisti, dice: siete una maledetta casta, scritto così, forse si riferisce all'articolo di Pierluigi Battista o perché ci sono tante pagine sui giornali, siete una maledetta casta. Ma insomma, caro amico tassista, lo dice dei tassisti, ecco, qualcuno dice dei giornalisti, e probabilmente abbiamo ragione entrambi, esatto. Cioè il problema di questo paese è che siamo tutti caste, tutti appartengono a troppe cappelli sulla testa, queste corporazioni fasciste che abbiamo ereditato. È così. Per Claudio da Roma invece la tassa più bella, vedi, è sentirci alla mattina. Beh, bellissimo, sentire voi la mattina. Questa è una tassa bellissima. Vedi che le tasse a volte sono bellissime. Costo, come qual diceva, è? Perché, la tassa vuol dire che tu paghi qualcosa. Non c'è un canone, caro ascoltatore. Riguarda quelle altre canalacci lì che voi andate a sentire. No, però dice impegna il suo tempo. Impegna il suo tempo. Questo è vero. Comunque, ci chiama Maria dalla provincia di Viterbo. Buongiorno, Maria. Buongiorno Milan e Oscar. Allora, per me è una tassa assurda quella del consorzio di bonifica Valtevere. Esatto. I miei figli sono coltivatori, sono agricoltori e hanno dei terreni distanti dal Tevere, non traiamo alcun beneficio. Che devono pagare? Cioè, che tassa devono pagare? La tassa del consorzio di bonifica. Di bonifica, esatto. Valtevere. Valtevere. Non so a che cosa serva questo consorzio di bonifica. A incassare dei soldi. È la risposta più sincera e giusta. Ad incassare dei soldi per il... Questa storia dei consorzi, infatti, di bonifica va avanti dagli anni 50. Si riferisce a enti che, ove mai ne abbiano avuto uno di ambito di intervento, nel frattempo li hanno quasi tutti sempre persi, non hanno le risorse per fare quello che dovrebbero fare e continuano a incassare. Cioè, è uno dei scandali italiani. Ma questo Maria Pia lo saprà, una tassa una volta che viene messa, le accise sulla benzina, esatto, lo sono lì a dimostrare, non verrà mai tolta, Maria. Quindi, sì, questo... Però non è giusta. Perché, certo che non è certo giusta. Noi 2 anni fa non abbiamo avuto alcun raccolto, solo spese, e in più questa qui è stata odiosissima. Anche... se sono 200-300 euro, però sono tanti per noi. Ma 200-300 euro l'anno, buttare via, insomma, l'anno, immagino, no? All'anno, sono dei soldi, non è che sono poca roba, comunque, anche perché 200-300 euro una tassa, magari ce n'è un'altra, una terza, e fanno quasi... Quindi, quasi 1000 vedi, euro per esempio, la nostra ascoltatrice, oltre che nel merito, ci fa notare un'altra caratteristica italiana. Noi siamo un paese che ha molti tipi di, si è inventato molti introiti fiscali a prescindere dal reddito realizzato, che dovrebbe essere una caratteristica imprescindibile dell'imposizione. Se io non ho realizzato reddito, devo pagare una tassa? È possibile mai? E la risposta dello Stato su diversi tipi di imposte, l'IRAP, sì, per esempio, sì, questo, sì, me la devi dare comunque. Va bene, Maria, grazie per averci raccontato di questa tassa che lei trova giustamente, anche per certi versi, assurda. Maria dalla provincia di Viterbo, andiamo a Monza da Maurizio. Buongiorno Maurizio. Buongiorno a voi. Il mio problema è legato alla famosa tassa Sistri, ovvero il sistema di tracciabilità della gestione dei rifiuti. 5 anni fa la Prestigiacomo ha fatto passare questo decreto con questo sistema da installare in tutte le aziende, su tutti i veicoli e in tutti gli impianti di smaltimento, dove tramite sistema elettronico di controllo, black box sui mezzi, chiavette, venivamo o dovevamo essere seguiti e semplificarci tutto il sistema di gestione dei rifiuti. E in sintesi, dica chi ci ascolta, è capitato? Com'è? È davvero capitato in questi anni la promessa? No, non è mai capitato, appunto. Paghiamo, esatto, 1500 euro per ogni impianto, 500 euro per ogni veicolo, è stato prorogato 5-6 volte, 6 mesi alla volta, da un anno e mezzo funziona in via sperimentale e noi abbiamo una doppia gestione, quella che è il cartaceo ufficiale dove, esatto, possiamo essere sanzionati, e questo dove è un via sperimentale. Però in cambio di questo si paga. In cambio di questo si paga, non funziona, erano stati arrestati tutti quelli famosi della Selectra che fa sempre capo meccanica, non se ne sa niente, il ministero 15 giorni fa ha ribadito sì, si va avanti ancora con la via sperimentale, però si cacciano soldi e noi facciamo la sperimentazione. Va bene, Maurizio, grazie per questa testimonianza. Del resto si renda conto che ieri c'era su 24 ore un nuovo annuncio del programma dello Stato, siamo pronti per la carta d'identità elettronica. Sì, ma 23, è da 20 anni, 24, è da 20 anni, sono 24. Stato, ma è da 24 anni. Vabbè, intanto continuate a dirci qual è la tassa, ma se volete intervenire invece sulle donne al potere, gli uomini al potere, vedi, o se no sulle tasse. Sulle, no, tasse è stata immediata una cosa. Chissà come mai. La vera tassa è pagare un commercialista per pagare le tasse, ci scrive un ascoltatore. Allora, a questo punto, per far rabbrividire i nostri ascoltatori, cito un grandissimo economista italiano all'inizio del Novecento, a me carissimo, quasi dimenticato, Maffeo Pantaleoni, che diceva questo: lo Stato è un gruppo di camorristi peggiore di ogni altro, più forte, più numeroso, più corazzato, meno sospetto e più asino di ogni altro. Ti fa godere. Forse questo. È per questo che l'hanno cancellato. Cioè, guarda questo, un altro ascoltatore, il consorzio della bonifica della Burana ci racconta di... ma sui consorzi di bonifica ce n'è. Consorzio della bonifica di Pratica di Mare, un altro ascoltatore, insomma. Però il migliore è Mauro da Olbia. È il bollo auto, ma soprattutto la tassa più odiosa è l'Inter. Ma perché ce l'ha con Banda Nera? No, non ho capito. Non lo so, direi di andare però in pubblicità su questa sacrosanta verità tra un attimo. State ascoltando un programma offerto da Fresca Salumeria Beretta. Tanti salumi italiani, buoni, gustosi e già affettati. 24 mattino. Attenti a noi due. Caro Oscar, ma lo sai che sta strada dei topi mi sta appassionando moltissimo a Roma? Solo che la stampa italiana, poi so già, il Messaggero dice ora i serpenti, poi le blatte, poi i baccarozzi, so già che sarà un'estate. Ovviamente stavo a enumerare, stavo ironicamente dicendo mi sta appassionando. Sì, so già che nasceranno le avvistamenti del serpente. Noi italiani siamo così un po' burloni. Siamo così, però anche nel senso che il degrado delle città, cioè, è inutile negare. Ma certo. Posso farti sentire solo Don Livio Fanzaga, un mito? Sì. Dice Don Livio che una volta nel seminario dove era lui è successo questo tipo di cose. Senti un po', Cosa dovremmo fare con quei topi, secondo voi? Secondo gli animalisti dovremmo accomodarli nel nostro letto. I topi di Roma sono molto grossi, io lo so perché sono stato a Roma 10 anni, non mi ricordo più. Mi ricordo che nel cortile del nostro seminario, allora, ogni tanto, attraversava il campo di calcio qualche topo enorme, talmente grosso che una volta un seminarista ha fatto gol con un topo. Ha fatto gol con un topo. Te lo immagini proprio, punizione all'incro nel 7 il topone. Ma dai, Don Livio. Questo conferma che ha grandi capacità creative, ecco. Fermo perché lo sai che Don Livio ha un pubblico tale che basta sfiorarlo. Lo dico con ironia e affetto. Ma dai, grande capacità creativa. Grande affetto, grande amore, un grande abbraccio, ma pensare che il seminarista vede il topone e con un esterno destro. In ogni caso, Don Livio, fuori il nome, lo scateniamo per la via di Roma, problema risolto. Esatto, vorrei intervistare il seminarista che ha insaccato il topone all'incrocio dei pali. Vabbè, ci chiama Marco da Milano. Oscar, pronto? Sì, buongiorno. Eccoci. Senta, tra le tasse che dimostrano il disprezzo di uno stato vessatorio e pasticcione, e di cui curiosamente non si parla mai, c'è quella che vessa i professionisti come me, cioè il bollo da 2 euro sulle strutture. Bravo. Allora, la sentiamo male, ed è caduta anche la linea, forse era in viva voce perché stava guidando e quindi fa bene, però allora non può intervenire. Però non può intervenire, e comunque messaggio ricevuto, ne bollo so qualcosa. Da 2 euro sulle fatture. Ne so qualcosa. Bollo da 2 euro sulle fatture. Ieri mi ho dovuto fare una provvista al tabaccaio tra me e mia moglie. Certo. Vabbè, insomma. Si chiama rapina questa cosa. Rapina. No, questo che poi dicevo, se lo Stato è ladro. Sì, è ladro. No, quella è una vessazione allo Stato. Puro, la marca da bollo, che riflettiamoci, a che cosa serve la marca da bollo? È un puro introito che dovrebbe giustificare il fatto che per la fede pubblica di un atto che di solito sei è tu. Di emanazione pubblica, eccetera. Tu, allora, sei tu. Hai capito? Chi siete voi? Da dove venite? Un fiorino. Fiorino, questa è. Punto. Questo è. Va bene, in realtà abbiamo chiamato il presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone, non per questo. Raffaele Cantone, buongiorno e grazie di essere qui. Ci sente Cantone? È caduta la linea, dobbiamo recuperarlo. Sentiamo intanto Marco da Pistoia, buongiorno. Buongiorno, certo parlare di tasse la mattina volete far proprio aumentare la pressione sanguigna fiscale di italiani. Vabbè, dica la sua. Ma noi lo facciamo perché è come sedersi sul lettino dello psicologo, così vi sfogate e la vostra giornata sarà migliore. Dica. Va bene. Anzi, aspetti un po', Marco. No, stia con noi. Scusi, abusiamo della sua pazienza. Ma siccome Raffaele Cantone forse è in movimento e lo ringraziamo, non abbiamo molti minuti. Raffaele Cantone, buongiorno e grazie buongiorno di essere qui. Buongiorno a lei, buongiorno. Allora, presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, si discuteva con Oscar Giannino nei giorni scorsi anche di questa storia dell'Expo, che tutti a dire, ma come l'Expo allora doveva essere l'exemplum della battaglia dell'anticorruzione. Lei ha sempre detto, beh, ma se non c'eravamo noi sarebbe andata anche peggio, cioè ci dobbiamo accontentare così in Italia qualcosa no. Purtroppo deve sempre capitare. Guardi, prima di tutto io credo che bisogna anche dimensionare l'accaduto, che è oggettivamente grave, ma che diciamo riguarda una vicenda anche molto limitata. Stiamo parlando di un appalto limitato che è stato dato ad Expo e poi della partecipazione di questo consorzio che avrebbe avuto in qualche modo legami con la mafia ai lavori dei padiglioni esteri. Padiglioni esteri per i quali, si ricordi bene, non si è applicabile la legislazione italiana, per i quali il rischio di infiltrazioni mafiose era già stato evidenziato fin dall'inizio, proprio per un dato legislativo. Ciò detto, io ci tengo a dire anche una cosa, che i controlli che si possono fare in via preventiva ovviamente sono completamente diversi dai controlli che può fare la magistratura. Cioè la magistratura mette in campo intercettazioni telefoniche, pedinamenti, possibilità di svolgere perquisizioni, che sono controlli che, diciamo, sfuggono a chi deve operare, diciamo, in via assolutamente con dati cartolari. Detto questo, io che, diciamo, giustifico, con quale provo a dare una spiegazione al contesto, quello di cui io mi sono un po' rizelato che in questa vicenda si sia provato a tirare dentro l'Autorità Nazionale Anticorruzione. Noi non svolgiamo controlli in materia di antimafia, ci vengono attribuiti continuamente compiti, ma l'antimafia non ci spetta. E fra l'altro ho letto sui giornali, perché io molte cose le ho sapute dai giornali, che l'ente Fiera avrebbe mandato alla Prefettura di Milano il 24 maggio del 2014 un elenco di società su cui fare controlli. Purtroppo il decreto legge che ha istituito i controlli sull'Expo dell'Autorità Nazionale Anticorruzione è del 24 giugno, quindi voglio dire, stiamo parlando di cose nelle quali l'autorità non c'è nulla. Detto questo, resta il dato, diciamo, che dice lei, cioè perché dovresti sempre accontentare di una soluzione il meno grave possibile? Sì. È perché l'Italia è un paese che ha problemi enormi. Cioè, chi nega l'esistenza della mafia, chi nega l'esistenza della corruzione, fa un'operazione di disinformazione. Il problema è provare ad abituarsi all'idea, piano piano, di scacciarli fuori da questi meccanismi, da questi eventi. Insomma, però lei dice giustamente l'anticorruzione, per i motivi che ci ha spiegato, c'entra poco, nel senso che poco poteva fare. Niente. E devo dire che io, diciamo, credo che il fatto di tirarci in qualche modo, malgrado fossero chiari i dati, cioè il fatto di provare a tirarci dentro, entra anche un po' in un tentativo di dire, questa furia iconoclasta che c'è, distruggiamo. Io non assoluto che anche sugli appalti che abbiamo noi controllato ci possano emergere in futuro, mi auguro di no, infatti il nostro è stato controllo. Faccio, diciamo, che non vuole essere cinico, ma sì, le indagini dell'autorità giudiziaria di Milano, perfette, eccezionali, sono arrivate però a un anno di distanza, quasi un anno di distanza dalla chiusura dell'Expo, cioè dall'apertura dell'Expo, che oggi siamo a luglio, l'Expo è stato aperto a giugno dell'anno, maggio dell'anno scorso. Se noi ogni volta dobbiamo aspettare tempi fisiologici della giustizia, perché un'indagine ha bisogno che le intercettazioni siano trascritte, ha bisogno che, diciamo, siano fatti i riscontri, perché allora interveniamo sempre a babbo morto. Sì, dopo la prevenzione, diciamo, per sua natura ha possibilità minori, però prova a evitare i danni, e credo il fatto di riuscire ad evitare gran parte dei danni sia un risultato da non sottovalutare. Sì, è un po' incredibile, non so, Oscar, cosa ne pensi, che i padiglioni esteri sfuggano in qualche modo alla legislazione italiana dei controlli quando vengono fatti in Italia. Cioè, non è un'ambasciata. Qui c'è una conformità che deriva dal tipo di evento internazionale, no? Del BIE e così via. Quindi il problema è che altrove questo tipo di procedure non si espongono ai rischi, chiamiamole ambientali, va, per capirci, che ci sono in Italia. Però il tema posto da Cantone, rispetto a chi come me è scettico innanzitutto perché crede che Roma abbiano altri problemi dal punto di vista economico finanziario, quindi non credo affatto che bisogna fare le Olimpiadi a Roma 2024, però si ripropone per tutti gli interventi straordinari fatti in tempi di emergenza e di urgenza, perché ricordate che poi anche per Expo si pose il problema a un certo punto dell'accelerazione, perché il tempo mancava per centrare l'obiettivo, con relativa sospensione di alcune verifiche, procedure straordinarie, poi polemiche, poi a quel punto l'autorità anticorruzione, bene, benissimo, questo è il mio commento, però come si vede questo non basta, cioè in un'Italia che è sempre indietro, questa è la mia domanda a Cantone, secondo lei in questo paio d'anni, da che ci siete anche voi, il problema del maggior rischio evidenziato dalle indagini per anni, nelle procedure accelerate quando saltano i controlli ordinari, lo abbiamo arginato in qualche modo o no, secondo lei? lo abbiamo arginato, nel senso che con il nuovo codice dovrebbero scomparire. Io credo di averlo detto da sempre, che le procedure accelerate, le procedure diciamo d'emergenza, le procedure semplificate sono certamente l'anticamera di fatti illeciti. Ovviamente questo non significa che tutte le procedure accelerate. Però sono il terreno fecondo. È il terreno fecondo. Ora voglio dire, nei giorni scorsi i giornali milanesi hanno ricordato un episodio che io persino dimenticavo. Che nel mese di dicembre del 2014, quando sembrava che ci fossero problemi enormi per fare Expo, la società Expo propose di fare un affidamento diretto di tutti gli appalti degli allestimenti a Fiera, sta parlando di circa 5 miliardi di euro, e io mi opposi non perché avessi ragioni diciamo di pensare che Fiera avesse problemi, tutt'altro, per me Fiera era comunque espressione di enti pubblici, malgrado gli enti Fiera in Lombardia siano strutturati in modo un po' sui generis, però comunque sono tutta proprietà di enti pubblici, quindi teoricamente maggiormente affidabili, ma mi opposi proprio per questa idea. Cioè, quando si accelerano le procedure, quando si va in deroga a tutto, si abbassa il livello dei controlli fisiologici, non di quelli straordinari. E se avessimo consentito, diciamo, quel tipo di intervento, chissà cosa sarebbe accaduto. Mi pare di capire, Cantone, mi pare di capire che lei anche fa capire una sorta di delegittimazione dell'ANAC, almeno nel tirarla tentativo, in ballo, nel striscia. Tentativo. No, io credo che questa non sia un tentativo di delegittimazione dell'ANAC, questo è un classico, diciamo, sistema italiano, per cui quando qualcuno fa qualcosa bisogna provare sputargli a tirare al piccione. Ci vuole dire in conclusione, confermare o smentire notizie che sono sui giornali, che l'ANAC avrebbe mandato le carte sulla vicenda della Raggi, delle consulenze a Civitavecchia alla procura, è vero o è smentita questa cosa? È smentito, l'ho smentito perché non abbiamo inviato niente alla procura di Milano. Abbiamo diciamo avviato un'attività a seguito di un esposto, ma ad oggi non abbiamo inviato nulla alla procura di Roma. Però se c'è un'indagine potrebbe che ma alla un'indagine, fine. Noi non facciamo indagini, diciamo, noi facciamo accertamenti amministrativi. Il nostro compito non è quello di individuare ipotesi di reato, il nostro compito è di verificare il rispetto delle norme in materia di trasparenza. Questa è un'altra delle cose, mi scusi se glielo dico anche un po' scherzosamente, diciamo, noi non siamo un'autorità giudiziaria, certo. E quando qualcuno dice loro non possono fare le intercettazioni, viva Dio, non possiamo fare le intercettazioni, noi siamo un'autorità amministrativa, per fortuna nel nostro paese le intercettazioni non mancano. Per non avete ancora girato nulla, ma non è escluso, no. Visto che state facendo un accertamento, ecco. Un accertamento doveroso in relazione a quanto emerso. A quanto emerso. Va bene, intanto la ringraziamo, Raffaele Cantone. Grazie a lei e a voi entrambi. Buona giornata. Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Se Marco da Pistoia ha un attimo di pazienza, noi andiamo avanti fino alle 9.30 e chiediamo scusa. E quindi lo rimbarchiamo, però l'ora è l'ora. L'ora è l'ora. Dobbiamo dare il giornale radio, giustamente, e rientriamo dopo le 9 sulle tasse. Parliamo anche delle unioni. Le unioni civili. Le unioni civili. Parliamo di questo, no? Tra poco. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Plateroti. C'è chi in pensione va ad osservare gli uccellini al parco, chi va nei cantieri, chi cerca il lavoro di consulente e chi si ricicla in altri ruoli, perfino discutibili. È il caso dell'ex presidente della Commissione europea, José Manuel Barroso, che è stato proprio appena annunciato come presidente non esecutivo della banca d'affari Goldman Sachs, quella che viene definita un po' come la Spectre della finanza o come la longa manus di Wall Street della finanza americana sui mercati internazionali. In questo ruolo Barroso non mancherà di scatenare polemiche, anche perché non è la prima volta che ex leader dell'Europa, ricordiamo ad esempio Kohl che andò a lavorare per i russi, viene assunto da quelle multinazionali che proprio sull'Europa hanno fatto il loro banchetto migliore. Per Barroso le polemiche insomma sono soltanto all'inizio e non sono nemmeno nuove, visto che fu lo stesso Barroso negli anni della sua presidenza della Commissione, 2004-2014, a farsi portatore non solo della necessità di creare un centro finanziario europeo in modo da contrastare gli speculatori americani, ma anche di quelle politiche del rigore che, oltre ad aver ucciso il Portogallo, rischiano ora di uccidere gli altri paesi. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. 24 mattino. Attenti a noi due. Siamo tornati! Eccoci qui tornati in onda. Io lo sapevo che bastava evocare il tema delle tasse per avere i nostri ascoltatori. Io non so se Marco da Pistoia già l'abbiamo fatto innervosire parlando delle tasse. Poi l'abbiamo fatto innervosire perché cantone. Abbiamo dato la parola e gliel'abbiamo tolta. Marco è ancora tra noi? Ma io sono ancora qui, l'ascoltavo. Fantastico. Tasse, solo tasse in questo paese, ma anche sprechi e servizi ridotti. È questo che ci dà lo Stato. Le tasse più odiose, sì? Tecnicamente non è una tassa, ma è un sistema per estorcere tasse impropriamente ai cittadini, alle imprese. Mi riferisco agli studi di settore. Uno scandalo, secondo il mio punto di vista, introdotto nel sistema tributario italiano e che sostanzialmente obbliga le piccole, soprattutto piccole, piccolissime aziende a tenere una contabilità, a pervenire ad un utile. Su quest'utile sarebbe logico applicare le aliquote per pagare e contribuire alla società, mentre lo Stato a questo punto dice no. Non è questo il tuo utile è questo più un altro pezzettino, perché è derivato dagli studi di settore, quindi da calcoli statistici, matematici, che con un territorio variegato come quello italiano, fatto soprattutto da zone marginali, mi riferisco alle isole, mi riferisco alle zone montane, dove c'è uno spopolamento sempre più accentuato, lo Stato pretende anche quello che non viene prodotto. Va bene, diciamo Marco, insomma il suo sfogo agli studi di settore è stata premiata la sua pazienza con questo sfogo, la ringraziamo ovviamente. Paghi però naturalmente. Paghi, come ovviamente adesso metta giù e paghi. Che se no non è congruo. Maurizio ci chiama dalla provincia di Bergamo. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno Milan, buongiorno Giannino. Eccoci. Ho sentito la notizia presto, verso le 7, in cui Milan raccontavi di un deputato europeo che ha proposto di tacciare i robot. Sì. I robot, sì. Trovo che sia la cosa più bella, notizia più bella di oggi. Oh. Perché in questo mondo dove ci raccontano che dobbiamo crescere e il lavoro non ci sarà più perché viene sostituito dai robot, dire un'azienda, adotti una persona per ogni robot che produce. Diversamente ci dobbiamo inventare un gran tritacarne. Ma guardi che Maurizio, qua Oscar Giannino prima ci diceva proprio che era il contrario, non è vero. Però la faccio combattere con Oscar, che l'ascolta con grande attenzione. Sì. Oscar, vorrei dire, in questo momento in Cina, che ho conosciuto a livello, diciamo così, industria nel 2001 e mi ero spaventato, a Shenzhen ci sono due aziende parallele, vicine, che stanno eliminando 10.000 operai cada una per sostituirli con i robot. Sì. Allora, cosa ne facciamo dell'uomo? Allora, ha fatto la domanda. Accettiamo di un secondo di ragionare. Questa è la stessa opinione che avevano dei telai meccanici, coloro che iniziano a bruciarli nell'ultimo decennio del 1700 in Gran Bretagna e nei primi anni dell'Ottocento. Ed era lo stesso fenomeno applicato alle prime macchine, no? Quelle applicate alla lavoratura dei filati. Da allora questa preoccupazione per ogni successivo aumento del livello di automazione fino all'intelligenza artificiale, quindi ai robot in linea, è sempre stata la stessa preoccupazione. Ebbene, da allora il numero di occupati, di tipi di lavori, di mestieri, non solo nelle linee produttive iterative, perché a questo servono i robot, ma nei servizi alle imprese, nei servizi pubblici, nei processi di marketing, sono sempre cresciuti. Il totale degli occupati è cresciuto per multipli nel mondo e anche nei paesi avanzati. Ovvio che poi ci sono le crisi, scendono le sale, eccetera, eccetera. Allora io capisco che uno si preoccupi dicendo stiamo abolendo il lavoro degli uomini. I numeri, la storia alle nostre spalle ci dice, due punti, non è vero. Attraverso l'automazione e attraverso l'intelligenza artificiale facciamo evolvere il tipo di mestieri. È ovvio che andiamo in un mondo nel quale non si chiede più di saper fare per tutta la vita la stessa operazione manuale e meccanica. In sintesi, quando mi portarono in prima elementare a vedere la Fiat Mirafiori, di fronte a cui io crescevo, all'epoca ci lavoravano 70.000 persone, e io fui spaventato, l'orrore dell'epoca, dalle presse di 40 quintali, e tornai a casa e dissi a mia madre, piuttosto qualunque cosa, lei mi diede uno schiaffo. Ecco, aveva ragione mia madre, sì, oggi quei 70.000 però non ci sono più ed è inutile rimpiangerli, perché o sono altrove o altrimenti non avrebbero potuto rimanerci. Questa è la mia sintesi, non è tassando i robot che noi andiamo da nessuna parte. In ogni caso, cari ascoltatori, adesso vorremmo parlare di unioni civili, perché è arrivato il decreto, è stato trasmesso al Consiglio di Stato il decreto che era tanto atteso per rendere attuativa la legge cosiddetta Cirinnà. E allora oggi, per esempio, su Italia Oggi il titolo di prima pagina è proprio questo: gay, matrimonio vero e proprio. Cioè, analizzando il decreto, l'unione civile diventa super, ci sarà la lettura dei diritti e dei doveri nel momento un po' come nel matrimonio. Esatto, si leggo. Beh, come un po' come nel matrimonio, hanno detto che non è assolutamente ma lo dico apposta. Non è assolutamente come il matrimonio, cioè si potrà scegliere il cognome. Cioè mettere il cognome dell'uno o dell'altro o dell'una o dell'altra, mentre invece tra gli eterosessuali non è possibile ancora. Per cui addirittura questa cosa viene vissuta come una cosa... Ha una discriminazione al contrario. È un rischio di discriminazione al contrario. Comunque, insomma, ne vogliamo parlare con Edoardo Carlo Raffiotta, che insegna diritto costituzionale all'Università di Bologna. Buongiorno, professor. Buongiorno, buongiorno ai telespettatori. C'è anche un sindaco, uno di quei sindaci, sindaco di Rovigo della Lega, Massimo Bergamin. Buongiorno sindaco. Buongiorno a tutti. Sindaco. Se posso dire ad Oscar Giannino, sostituiamo Renzi con un robot, sicuramente. Ma vede? Paese, vede? Ma guardi che io se... Non è una battuta, io sono per sostituire moltissimi politici con la loro votazione discrezionale con macchine automatiche, perché ne riguadagneremo incertezza. Ma al di là di questo, ma un sindaco non è un politico, è un uomo in trincea in prima linea. Lo so. Allora, la domanda, tra l'altro, che dobbiamo porci è: ma se lo fa per tassarlo? Il decreto, per questo Renzi stesso firmerebbe. Allora. La domanda che dobbiamo porci è se, tra l'altro, il decreto attuativo consente o meno l'obiezione di coscienza, ecco, ai sindaci e anche agli amministratori, cioè ai funzionari di stato civile. Lo consente, cioè è qualcosa di analogo alla legge 194 per così, cui c'è l'obiezione così non è, così non è, mi sembra di capire. Cioè, sindaco, lei che ha già detto farò l'obiezione di coscienza, cioè lei sposerà mai due persone dello stesso sesso? No. Ma guardi, l'istituto del matrimonio civile è molto chiaro e preciso. Io in 12 mesi di mandato, sono qui da un anno, sì, ho celebrato, se così si può dire, in senso, un matrimonio. E oggi esiste la delega. Io posso delegare qualsiasi cittadino che goda dei diritti civili a sposare una coppia, appunto. Certo. Quindi il problema non sta... poi mi rendo conto, insomma, che soprattutto l'intolleranza di una certa parte politica di ben pensanti nel pensiero, ma di intolleranti nell'agire, perché io da 2 giorni che vengo bombardato, sono stato disattivato in Facebook, tutta una serie di azioni, di attacchi strumentali che poi alla fine non sono entrati nel merito di quello che io veramente ed effettivamente ho dichiarato, sì, ma bensì di tutto il contorno che poi si è creato, come spesso accade. Quindi il problema non sta nel riconoscimento dei diritti civili, ma nella facoltà che io rivendico, e nessuno mi potrà mai far cambiare idea, perché questo paese ha bisogno di persone decise, che sanno schierarsi e che non hanno paura, ma è chiaro, cioè, di affermare lei, le proprie ma idee. Lei non è obbligato, non lei delegherà, mai, delegherà. Io non celebrerò mai un mai. Matrimonio tra due persone dello stesso sesso, che non vuol dire che io non tolleri due persone che si amano dello stesso sesso o che dentro la camera da letto proprio fanno quello che vogliono, a me non compete, punto. Mm-hmm. Io delego chiunque. Delega. Però sindaco, problema. Ecco, la domanda è questa, sì. Lei comunque consentirà che nel suo comune una delega venga, cioè non ci sarà, non ci sarà un'obiezione, appunto, invece non c'è il rischio che alcuni sindaci della Lega facciano proprio un'obiezione, cioè impongano che nel proprio comune, anche con un delegato, ma allora lì entriamo in una sfera, come dire, poi ognuno, ogni sindaco decide del proprio destino, delle proprie funzioni. Io non posso sindacare, appunto, per parafrasare quello che faranno gli altri. Io so quello che farò io, ma si può, come dire, essere obiettori e manifestare la propria contrarietà rispetto ad una legge, a qualcosa che poi, torniamo al discorso di prima, non per sostituire un primo ministro che è politicamente abusivo, di che cosa parliamo? Viviamo in un paese strano, viviamo in un paese che non da qualsiasi altra parte del mondo, anche dove qualcuno ancora oggi lo definisce terzo mondo, non saremo in queste condizioni, punto. Poi non ci occupiamo degli esodati, non ci occupiamo dei disoccupati, non ci occupiamo dei problemi che hanno le città, i paesi, i sindaci in prima linea, indipendentemente che il comune sia composto di 552.000 come il mio, 500.000 abitanti o milioni di abitanti, oggi i sindaci non sono nelle condizioni di affrontare i problemi reali dei propri concittadini. E dice ci occupiamo invece di queste cose, va bene, sì. Questa è un'obiezione che abbiamo già sentito, però secondo me si può fare varie cose contemporaneamente, Oscar, però insomma questa è l'obiezione del sindaco. Allora, in paesi complessi bisognerebbe farlo, però è la stessa obiezione mostra che dice la legge elettorale, così via. Dipende dalle sensibilità politiche delle diverse forze politiche per diversi temi. Ma qui professor Raffiotta ci può aiutare qualcosa a capire di questo decreto e di decreto attuativo come sarà e ma che cosa intanto posso dire due cose sulle osservazioni del sindaco. Perché guardate, diciamo così, il sindaco dovrebbe distinguere ovviamente la sua opinione personale di libero cittadino dal suo ruolo ufficiale, il suo mandato di sindaco. Ora, ritengo che qualora vi fossero dei sindaci che proprio vietassero o comunque si rifiutassero e non delegassero la funzione di celebrare le unioni civili, riterrei che in questi casi potrebbero essere addirittura perseguiti penalmente, okay? Come rifiuto, omissione di atti d'ufficio. Del resto lo stesso sindaco nel momento in cui delega resta sempre lui il titolare della funzione, d'accordo? Quindi mi interrogo e mi chiedo se i cittadini volessero essere uniti nell'unione civile dal sindaco, se questi a un certo punto potesse appunto rifiutarsi. Io ritengo di no, francamente. Quindi, cioè se chiedono due persone di voler essere esplicitamente uniti dal sindaco, secondo lei il sindaco è obbligato? Potrà dire sono impegnato, ho altre cose da fare, per questo voglio delegare, ma certo non può essere un rifiuto esplicito, ecco, ritengo che sarebbe ma così farà, ci ha detto il sindaco, così farà, delegherà, l'importante è che lui non lo faccia. Sì, mai. Sì, sì, d'accordo, la delega però significa che comunque è sempre lui il titolare della funzione, bene, l'esercizio è poi a un suo delegato. Posso chiedere, professor Raffiotto, una cosa per spiegarla ai nostri ascoltatori che non sono tenuti ovviamente a conoscere i meandri del labirinto interpretativo di come un principio diventa legge e come la legge lo garantisce nel nostro paese. Che cos'è che differenzia la facoltà che il nostro ordinamento consente all'obiezione di coscienza su materie come per esempio il medico o l'infermiere sull'interruzione di gravidanza, e lì viene riconosciuta, anzi è maggioritaria in moltissime regioni italiane nell'offerta pubblica di servizi sanitari, rispetto al tema no, non riconosco il diritto all'obiezione di coscienza su temi come un tipo di legame riconosciuto tra persone dello stesso genere nel nostro paese, se tu sei colui che a nome dello Stato lo deve riconoscere. In cosa consiste la facoltà concessa nel primo caso e negata nel secondo? Politica fatta dal legislatore. Ora, il discrimine è proprio questo. La Corte Costituzionale già in passato ha detto che non vi è un generale diritto dell'obiezione di coscienza per i pubblici ufficiali, se non è espressamente previsto dalla legge. Nel caso della disciplina abortiva, come ricordava lei, l'articolo 9 lo prevede espressamente, ma è proprio la legge che contempera e bilancia la libertà del privato con l'interesse della collettività, che ovviamente è interessato all'esercizio della funzione pubblica, quindi questo è il punto. Il punto è questo. In ogni caso, sindaco, lei ha già detto che non lei, pur delegando, ci dice il professor Raffiotta, sarà lei comunque sempre il titolare, no? della funzione, sì, cioè, no, la firma alla fine immagino che sarà la sua. Ma è questo, vero? Questo è un paese che si occupa più dei contorni ma tralascia i contenuti e i principi. Io, il professor Raffiotta forse non mi ha sentito quando ho parlato prima, io ho detto che questo è un comune che rispetta, ahimè, lo Stato, le leggi che questo Stato, di questo governo, come dire, cioè non stavo mettendo in discussione questo. No, fisicamente no, io non ci sarò. Io parlavo di ipotesi, non parlavo io di lei. Io fisicamente non ci sarò, ma non perché ce l'ho con qualcuno. Certo. Quel qualcuno che invece ha dimostrato intolleranza nei miei confronti in questi giorni attaccandomi. Ma cosa è successo? Non mi sono mai permesso di offendere, anche perché non c'è un albo dei gay, voglio dire, non c'è un registro dove qualcuno, cioè io mi guarderei bene da distinguere i cittadini e dividerli tra gay, tra altre. Ma io mi riferivo a lei personalmente. No, ma si figuri, professore, sto solo dicendo che per me le persone sono tutte uguali, nel senso, cioè, voglio dire, soprattutto in una comunità, non è che stiamo qui a, a fare delle differenze, sarebbe una cosa fuori da... Però lei, sindaco, ha usato questa immagine su Repubblica, non so sì. se è vera. E se un giorno poi viene qui una vuole, no, e si vuole sposare con un cavallo? No, ma vede, siamo sempre lì. L'intervista è durata 28 minuti, poi, ma è stato anche corretto il giornalista Enrico Ferro. Sì. Poi viene estrapolata e vengono fatte questo paradosso, sei domande. Questo paradosso. Però non era inserito nel contesto come poi è stato, come dire, esaltato in giro per altri strumenti di comunicazione, citando solo questo, non era un esempio, era per dire che per quanto mi riguarda io vado per esclusione, non vado per far tutte le altre tipologie. Per me una coppia, per me la famiglia è un uomo e una donna, punto. Tutto quello che non riguarda l'unione di un uomo ed una donna appartiene ad altre dinamiche. Se vogliamo parlare di diritti civili, di convivenza e di quant'altro, io non entro nel merito di due uomini, di due donne. Era lì in quel contesto di tre donne e un uomo, potrebbe essere sì, l'amore sì, non ha, non può essere circoscritto da una norma o circoscritto in altri ambiti. L'amore è qualcosa che si libera ovunque, punto. Comunque, allora era lì. Persone che amano di più il proprio sì. cane, il proprio gatto, del proprio vicino, del proprio compagno, perché hanno dei motivi per farlo, punto. Poi da lì a passare ad altre situazioni, no. Io voglio rientrare nel concetto di famiglia, di matrimonio, di unione tra un uomo e una donna. Un uomo e una donna. No, tra l'altro dicevo il paradosso prima, Oscar, del decreto. Sì. Vedi, Italia Oggi fa questo esempio. Si sposano, si uniscono civilmente Mario Rossi e Sergio Bianchi. Allora, Mario Rossi, se scelgono il cognome Rossi, Mario Rossi non cambia niente, mentre Sergio Bianchi potrà chiamarsi Sergio Bianchi Rossi o Sergio Rossi Bianchi, cioè c'è la possibilità di... Cosa che agli eterosessuali non è figuriamoci se capita che un torinista che si chiama Neri arriva uno che si chiama Bianco, si devono chiamare Bianco Neri, è finita, la famiglia finisce prima ancora di cominciare. Vabbè, insomma. Ma di queste cose, sindaco, mi sa che non è un gran polverone, ma non vedremo poi. L'importante è non vedere sindaci leghisti che impediscano che nel proprio comune, anche con delegati, non si uniscano civilmente. Non parlo in nome per conto, anche politico all'interno della Lega, sono vicepresidente della Lega Veneta in Veneto. Io credo che comunque, voglio dire, noi lottiamo per liberarci da questo governo di abusivi e quindi poi per cambiarle le norme, ma non per impedire che queste vengano applicate, ci mancherebbe. Questa è un'altra questione. Ci mancherebbe. Cosa potrebbe rischiare, professor Raffiotta, un sindaco che tu cursi si impunta proprio e non... No, rischia un procedimento penale ai sensi del codice penale per l'articolo 328, rifiuto omissione di atti d'ufficio. Però sotto questo punto di vista vorrei che i sindaci anche rispettassero la legge aspettando la normativa di attuazione, perché ho letto sui quotidiani di sindaci che sono già partiti celebrando unioni civili che francamente non so che validità avranno nel momento in cui la legge ancora non è stata attuata. Ecco, questo è un altro problema effettivamente. No, ma questo che dice perché vengono Raffiotta. Messi in un registro provvisorio. Sì, provvisorio. È la classica dimostrazione di come la politica nel nostro paese sono materie intere nelle quali mette, per così dire, il carro di fronte ai buoi, perché il fine obiettivo è quello di interpretare agli occhi dell'opinione pubblica parti, questa commedia che è la vita pubblica, fare le foto, a prescindere dalla sostanza concreta di ciò che consente di attribuire, di esercitare diritti e garanzie, cioè il rispetto delle leggi dell'ordinamento. Vabbè, ma viviamo in un paese così. Certo. Cioè, ci sta dicendo il professor Raffiotta che quelle unioni civili di cui abbiamo visto foto, certificati in alcuni comuni, in realtà sono tutte, come dire, per il momento cose patinate. Patinate, sono cose un po' teatralizzate, teatrali. Su questo, se posso dire una cosa, certo. Allora diciamo così, una premessa: questa legge è una legge scritta tecnicamente malissimo, d'accordo? Non mi riferisco ai contenuti, ma proprio alla tecnica legislativa. Aprendo la legge vedrete che, già questo è indicativo, vi è un articolo con ben 69 commi. Il comma 28 delega entro 6 mesi il governo ad adottare una serie di decreti legislativi per coordinare e integrare materie importanti come ad esempio quella dell'iscrizione, trascrizione, annotazione sui registri o gli effetti del matrimonio e delle unioni celebrate all'estero, quindi non cose da poco, d'accordo? Sì. Però per evitare che i tempi siano troppo distesi, lo stesso articolo 1,34 prevede il cosiddetto decreto ponte, di cui ha parlato anche lei nell'introduzione, che è un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri che disciplina in via transitoria le norme per la tenuta dei registri e l'archivio dello Stato civile, in attesa, dice, che vi saranno poi i decreti legislativi. Ora, è chiaro che non si è riuscito ad avere un accordo su tutto, vi era fretta di chiudere e approvare questa legge in fretta, e quindi si è dovuto poi rinviare ad altri decreti legislativi la sua attuazione. Una gran pastoia. Sentiamo Antonio da Senigallia che ci chiama per concludere. Antonio, buongiorno. Antonio, ci sente? Sì, benissimo. Dica. Allora, io mi sposo il 18 settembre. E intanto auguri, perfetto, abbraccioni e auguri. Grazie tanto, è una bellissima trasmissione la vostra, la seguo tutti i giorni da anni. Ma scusi, si sposa con chi, se possiamo saperlo? Cioè... Ah, con il mio compagno Daniel. Ah, ecco, si sposa, però ha usato una parola, sposarsi. Sì, vabbè, unioni civili. Vabbè, bene, auguri. Per me cambia poco, non cambia... Lei, possiamo fare una domanda? Lei è tra quelli che esprimono, pur riconoscendo il passo avanti dell'unione civile, esprimono anche insoddisfazione però per la non piena omologazione, sappiamo che la stragrande maggioranza dei paesi europei c'è con il matrimonio, oppure dice, intanto è un passo avanti, accontentiamoci. Andiamo un passo avanti, accontentiamoci. D'altronde in Italia bisogna accontentarsi sempre, quindi voglio dire, nel meno peggio, meglio almeno. Va bene, il 18 settembre è il meno peggio. Va bene, Antonio, con lei le facciamo. A lei e al suo compagno i nostri migliori auguri. Ricordate di non capitare, non fate come Zazà Gabbro, la sai la battuta di Zazà Gabbro? No. Famosissima, pluri seppellitrice di mariti, no? Sì, le collezioni. Io sono diventata una fedele osservante del istituto del matrimonio. Domanda: perché, gli fece Gianni? Perché si diventa proprietario di immobili. Volta mi sono presa a casa, questo era il suo commento. Va bene, ringraziamo il sindaco di Rovigo della Lega Massimo Bergamin e Edoardo Carlo Raffiotta, docente di diritto costituzionale a Bologna. Grazie. E ci fermiamo qui, cari amici. Domani però anche domani siamo. Guardate che se ci vogliate telefonare per dire le tasse più matte, siamo sempre qua. Le tasse più matte, va bene, siamo qui. Ciao.